English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Criarelli. Tutto è già pronto per la cerimonia inaugurale che il 20 gennaio prossimo alla Casa Bianca segnerà il definitivo passaggio delle consegne dall'era Bush alla nuova amministrazione Obama. Parliamo dunque della nuova coppia presidenziale in questa puntata di English 24. Ci concentriamo però sulla First Lady. Ci divertiamo con uno sguardo un po' femminile su Michelle Obama. Ne parla anche il nostro mensile in edicola English 24 con questo articolo tratto dal magazine The Politico. Ecco qual è lo stile di Michelle. As a historic First Lady, Michelle Obama will bring a traditional touch to the symbolic role. Her approach will be a hybrid of the country's two most recent first ladies with a splash of Jacqueline Kennedy's simple, elegant style. Expect part no-nonsense and involved, circa Hillary Clinton, and part reserved, influenced, a la Laura Bush. In short, First Lady Obama will be the picture of the modern woman who has it all. An Ivy League-educated professional, doting mother, and adored wife who pulls it all off in a cigar-rolled jersey tunic and palazzo pants. A 44-year-old Harvard Law School graduate, Obama says her first priority will be her two young daughters, Malia 10 and Sasha 7. Giulia, l'abbiamo detto in tutte le salse, lo sappiamo, è un momento molto importante quello dell'insediamento di Barack Obama e di Michelle come First Lady, perché è una tappa storica nel corso degli Stati Uniti. Però Michelle ha anche degli aspetti tradizionali e questo viene messo in luce dall'articolo del The Politico. Sì, proprio si spiega che lei will bring a traditional touch to the symbolic role, quindi porterà un tocco di tradizione in un ruolo molto simbolico. Sappiamo, è la prima First Lady nera, così come suo marito sarà il primo presidente nero. E quindi, secondo il Politico, her approach will be a hybrid. Hybrid è ibrido. Molto spesso la Y viene pronunciata come una I, quindi come una high, of the country's two most recent first ladies. Quindi le most recent, le più recenti, le most recent first ladies sono naturalmente Hillary Clinton negli 8 anni di era Clinton e poi Laura Bush negli 8 anni dell'era George W. Bush. Ma non solo, perché lei guarda anche al passato più lontano. Quindi ci sarà una pennellata, potremmo dire così, quindi a splash of Jacqueline Kennedy's style. Jacqueline Kennedy è senza dubbio, direi, viene sempre citata come la più elegante first lady della storia degli Stati Uniti, e quindi il suo stile ineguagliabile. Michelle sarà più pratica, così come sarà più tradizionale anche, però ci sarà un splash di Jackie. Invece di Hillary e Laura cos'ha? Dunque, qui ci sono tre espressioni che sono interessanti. Quindi, prima di tutto, avrà uno stile no-nonsense circa Hillary Clinton. Allora, circa è scritto come il nostro circa, ma vuol dire come era intorno a Hillary Clinton, cioè appunto il circa alla latina. Cioè, quindi, no-nonsense vuol dire che nonsense, sappiamo, una cosa senza senso, e quando è qualcosa è no nonsense è invece molto pratico. Quindi è un'espressione molto americana che dice, quindi, Hillary Clinton vestita sempre che sembra che debba andare a fare una battaglia, cioè comoda, in un certo senso anche femminile, quasi sempre alla gonna, però molto così straight, molto quadrata. E invece di Laura Bush cosa conserva la nuova First Lady? Questa naturalmente è un'opinione, ognuno può farsi un'idea sul guardaroba di Laura Bush. La mia personale è pessima, però il Politico la definisce quella reserved influence alla Laura Bush. Laura Bush non sapremo mai quanto ha influenzato il marito, perché in effetti è stata una reserved influence, un'influenza molto riservata, sicuramente giocata tutta fuori dai riflettori, con lo stile alla Laura Bush, quindi detto alla francese, così come era Laura. Una donna molto moderna sarà comunque Michelle Obama. Ci sono alcune espressioni che utilizza questo articolo proprio per identificare il suo tocco moderno. Quindi è modern woman who has it all, letteralmente che ce l'ha tutto, cioè che ha tutto quello che si può desiderare. Qui c'è un'espressione molto carina, forse molti se ne parla ogni tanto, quindi forse qualcuno dei nostri ascoltatori lo sa. Comunque lei viene definita come una Ivy League educated professional, quindi una professionista, lei è un'avvocatessa con una formazione universitaria da Ivy League. Ivy è l'edera, e le università dell'Ivy League sono ne fanno parte Harvard, per esempio, perché sono quelle, perché hanno l'edera sui muri, perché sono molto antiche, tutto qua. Qui c'è un'espressione interessante per indicare quanti anni hanno le figlie. Sì, noi non potremmo mai dire Giulia 39, Marta 29. Esatto. Noi dovremmo dire Giulia 39 anni, Marta 29. Invece in inglese si può dire Malia, virgola, 10 and Sasha 7. Anzi, Malia, dice il nostro English 24. Io non so come sia in realtà, se Malia o Malia. Ma nemmeno io so se ho 29 anni. Comunque, continuiamo a parlare di moda, perché la nostra Michelle Obama conserva un po' delle first ladies precedenti proprio anche in fatto di moda. Ne parla in particolare questo servizio della Associated Press. From her love of bold colors to her penchant for figure-hugging silhouettes, Michelle Obama is the first lady fashion designers and style watchers have been waiting for. Known for wearing everything from top designers like Narciso Rodriguez to off-the-rack pieces from J. Crew and Target, Obama is all at once the latest American style icon and the everywoman. Many say just like Jackie Kennedy did when she entered the White House in 1961. Like Kennedy, Obama's staples include the sleeveless sheath dress, short strands of pearls, and let's not forget the brooch. But unlike the couture-wearing Kennedy, the next First Lady is more populist in her fashion style, often favoring lesser-known pocketbook-friendly designers and chain store pieces accessible to all. Ci sarebbe uno studio sociologico da fare sul fatto che tantissimi di questi servizi, ne ho ascoltati veramente tanti, cercano di trovare le similitudini tra Michelle e le first ladies precedenti. Bisogna trovare per forza una certa continuità. Qui la giornalista dell'Associated Press individua in Jackie Kennedy il punto di riferimento per Michelle Obama e utilizza molti termini che ci possono interessare se parliamo di moda, ad esempio. Sì, dice che fashion designers and style watchers have been waiting for Michelle, no? Tutti gli stilisti e style watchers, cioè noi diremmo le fashion victim, tutti quelli che osservano la moda, lo stile, hanno aspettato una come Michelle. Perché? Perché lei... She wears everything from top designers, che sono quelli che noi chiamiamo i super stilisti, off the rack pieces, sono pezzi che prendi direttamente, pezzi, articoli, che prendi direttamente dallo scaffale, dall'appendino, perciò ovviamente non sei in una boutique di quelle dove non puoi toccare niente. Per esempio J. Crew and Target, questi sono due marchi che in Italia non esistono, però J. Crew in particolare è molto famoso, è un po' un Benetton di lusso. Perché la giornalista della AP ritiene che Michelle Obama sia così simile a Jackie Kennedy? Cosa hanno in comune? Beh, entrambe amano gli sleeveless dresses, cioè i vestiti che non hanno le maniche, sleeveless. Le piacciono molto, però le piacciono anche i short strands of pearls, cioè fili, strand corti di perle, proprio come Jackie. E poi let's not forget the brooch. Brooch sono le spille, Jackie Kennedy ne aveva di stupende e anche Michelle ne ha qualcuna. Lo dicevamo prima, si vede sia dai grandi stilisti sia dai marchi popolari, e infatti prosegue la giornalista proprio sottolineando questo aspetto. Sì, cioè, unlike the couture wearing, couture lo usano gli americani, in francese non avrebbe senso perché vuol dire solo sartoria, in francese per dargli il senso dell'alta moda bisogna mettere haute couture, comunque l'idea è quella, cioè Jackie Kennedy si serviva dai grandi stilisti, Michelle è more populist, she buys lesser known, quindi meno conosciuti, pocketbook friendly designers, quindi stilisti che sono amici, quindi non nemici, o comunque perciò non costano molto, questo è il senso, dei nostri portafogli pocketbook. Articoli accessibili a tutti perché si trovano in chain stores. Questo è tipicamente un'espressione per dire appunto nelle grandi catene, sono quelle che negli Stati Uniti sono diffuse molto prima che da noi. Noi per molto tempo abbiamo avuto sostanzialmente solo Benetton, lì invece è sempre stato così, e poi noi oggi naturalmente abbiamo Zara e H&M, quelle sono proprio le chain stores con pieces accessible to all, che tutti possono comprare. Al linguaggio di Barack Obama avevamo dedicato una puntata in occasione della sua elezione. Adesso sentiamo parlare proprio Michelle. In un'intervista alla CNN ha svelato anche gli aspetti più privati, come il loro primo incontro. I was a first year associate at Sidley and Austin. I just graduated from law school. Had spent my first summer as an intern, and there was all this buzz about this hotshot young first year law student from Harvard, and everyone, I mean from the head of the firm on down, it talked about how brilliant this guy was, and it was rare that a firm as big as ours hired first year students, so he was going to come in as a summer associate, and they decided that I should be his advisor, and I probably did what a lot of people do when they hear about Barack Obama. First I thought, what kind of name is Barack Obama? And I found out that he was biracial. So my assumption was, this guy's got to be kind of weird, right? Probably a little nerdy. I'd already sort of created an image of this very intellectual nerd. Non potevo resistere, mi piaceva questo aspetto romantico del loro incontro. Effettivamente Michelle Obama parla davvero come una Ivy League educated professional. Beh, poi parla anche come una donna innamorata, secondo me. Per questo confesso mi è piaciuto. Comunque lei racconta che era una first year associated. Sapete che negli studi, soprattutto in quelli di avvocati, c'è questa successione di ruoli. Si fa carriera, prima si entra come un intern, cioè come uno stagista, sempre pagati, perché questa è una cosa che sugli cui negli Stati Uniti non si transige, cioè d'accordo sei uno stagista, un intern, però sei pagato perché stai comunque facendo un lavoro, quindi non esistono gli stage gratis come qui da noi. Comunque, poi è diventata una first year associated, quindi è un'associata, non ancora una socia, poi eventualmente si va sempre più su. E lei dice, io mi ero appena laureata, I had just graduated from law school, però law school l'aveva finita. Soltanto che nel frattempo arriva il super brillante hot shot, cioè letteralmente uno sparo caldo, che però vuol dire uno appunto super brillante, che era addirittura un first year student, cioè era uno studente del primo anno, ma lo volevano già, tanto era brillante. How brilliant this guy was. Lei sapeva che questo ragazzo era molto brillante perché ne parlavano tutti, all this buzz. All this buzz, buzz è, può essere anche il sul rumore del campanello, però vuol dire appunto un rumore di fondo incessante, continuo, cioè come se non si riuscisse a smettere di parlare di questa persona, perché era, he was gonna come in as a summer associate, veniva quindi come non un intern ma addirittura già un associato solo per l'estate, perché poi sarebbe tornato a scuola. E lei cosa ha pensato appena le hanno detto arriva questo Barack Obama? Prima cosa che ha detto, ma che cavolo di nome è Barack Obama? What kind of name is Barack Obama? Lei dice, questo è quello secondo me che tutti pensano quando sentono questo nome. E poi dice una cosa molto interessante, lei non ha scoperto che era nero. Dice, I found out he was biracial, e quindi si è data anche una spiegazione del perché dello strano nome. To find out, naturalmente, find, scoprire, scoprire, quindi ha scoperto che era appunto, aveva due razze, era un uomo che poteva addirittura, era, è come se fosse una cosa in più, ecco, è divertente, è bella questo modo di dire, perché appunto è come se l'essere misto è qualcosa che in più e non in meno. Sì, certo, qualcosa in più, però era un po', lo possiamo dire, un po' bizzarro, un po' sfigato secondo lei, prima di vederlo. Poi nel prosieguo dirà che però l'ha visto, era anche un bel ragazzo, quindi poi ha cambiato idea. Ma lei che idea si era fatta? Lei si era fatta un'idea, quindi farsi un'idea, to assume, quindi my assumption was, la mia idea era, e this guy gotta be kind of weird, questo ragazzo, guy, deve essere un po' strano, ma weird è proprio strano nel senso un po' pazzoide, un po' particolare. Poi ci pensa meglio e dice, più che pazzoide, probably nerdy, cioè proprio un po' sfigato. Diciamo, eh sì, non c'è altro modo di tradurre nerdy, cioè un po' da nerd. Un very intellectual nerd, quindi un nerd molto intellettuale. Così è nata la storia d'amore tra Barack Obama e Michelle, che stanno per diventare in questi giorni la coppia presidenziale degli Stati Uniti. Così finisce il nostro English 24. Vi ricordo che in edicola c'è sempre il nostro mensile e invece il nostro appuntamento alla radio sarà per sabato prossimo. Ringrazio Filippo Aureggi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'auguro di una buona serata.